dopo tanti mesi, persa ti ho incontrata. Sono il solito coglione, non ti ho manco salutata. Fortuna che c'è, la mia amica migliore. Mi ha fatto notare, non sono serio nelle storie. Mi ha fatto sperare in una storia seria. Io spero di trovare entro questa primavera. Lei che mi ha convinto, su dai chiedile scusa. Io l'ho fatto e adesso ho paura. Leggendo le nostre conversazioni, ho provato strane sensazioni e mi è scesa anche qualche lacrima e confesso più di una. Ecco perché adesso ho paura. Io non so cosa provo, io non riesco a dare un nome a questa strana ma stupenda sensazione. Anche se non dici niente di particolare, mi emoziono perché per me sei te speciale. Da quando ti ho vista batte più forte il cuore. Non sono sicuro ma penso sia amore. Da quest'estate penso solo a te, ma non chiedermi il perché, finché siamo felici io e te. Da quando ti ho vista batte più forte il cuore. Non sono sicuro ma penso sia amore. Da quest'estate penso solo a te, ma non chiedermi perché, finché siamo felici. Quando ti penso mi viene da sognare, rivedendoti mi pare di volare. Per me è un periodo strano, non so quello che dico, non so quello che faccio. Non so cos'è, non so il perché, ma non posso credere esista un'altra come te. Se i baci fossero parole ti farei un discorso lungo ore ed ore. Perché da quando ti conosco, sempre nella mia testa, per strada ad una festa, anche a scuola, io non so che dire. La tua voce e le tue labbra io vorrei sentire, ma in questa scuola imprigionato come il mio cuore innamorato. Non sai cosa vuol dire, vado subito a dormire con la voglia di prender sonno e di giorno bisogno. Quando ti ho vista batte più forte il cuore. Non sono sicuro ma penso sia amore. Da quest'estate penso solo a te, ma non chiedermi perché, finché siamo felici io e te. Da quando ti ho vista batte più forte il cuore. Non sono sicuro ma penso sia amore. Da quest'estate penso solo a te, ma non chiedermi perché, finché siamo felici.